Manca ancora un minuto e venti, ma finora nessuno ha indovinato. Da Saxon, Van Halen, Gotthard, Raven, Wisnick, no, vi do un piccolo aiuto, è un gruppo southern rock americano, dico più niente. Qualcuno ha buttato Molly Hatchet, si è avvicinato, però questa volta vi ho preso un po' in castagna, impreparati. Non era facile perché, nonostante in America loro abbiano inciso diversi album, penso che non siano più in attività comunque, è una band di southern rock non tra le più popolari, minori magari di Molly Hatchet, minori di Blackfoot. Si chiamano, o si chiamavano, visto che mi sembra non siano più in attività, perché qui ci stanno provando con Outlaws, Lena Skenner, è logico, di Purple non lo erano assolutamente, Heaven and Hell non lo sono, tutti scrivono Lena Skenner, Dream Theater addirittura, invece no, si chiamano Point Blank, ok? Questa poi è una versione che dal vivo chiudeva un album che era in studio, però hanno voluto inserirla, quindi un album pubblicato, non dico facile da trovare, però ristampato in CD tramite internet li trovati. E non erano male, ci davano dentro pure loro. Diamo lo spazio a questo punto e il collegamento alla rubrica Backstage Pass con tutti gli aneddoti di Chuck Bird.